got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Benvenuti negli anni 60, dove le coppie miste erano una novità e per alcuni anche un problema, dove in America si discuteva di integrazione razziale, in Italia il problema ancora non esisteva. Indovina chi viene a cena, il film del 67, la nostra scusa ufficiale per parlare ancora a oggi di pregiudizi razziali, di integrazione fra culture, tutte cose che noi pensiamo si possano superare, ovviamente come a tavola superiamo certe nostre avversioni. Insomma, a tavola, come nella società e nella vita, i gusti cambiano. Parliamo quindi di cucina e ricette per raccontare ancora una volta i nuovi italiani, magari nati all'estero ma da decenni in Italia o nati in Italia da genitori stranieri. Indovinate chi viene a cena stasera a Radio 24. Benvenuto allo scrittore e medico italiano di origine del Togo, Kossi Komla Ebri. Buongiorno. Grazie e benvenuto. Allora, lei è nato in Togo qualche anno fa e è approdato in Italia nel 74 ormai, no? Si è laureato in Italia, è così? Sì, mi sono laureato a Bologna. Bologna la dota e Bologna la grassa. Quindi, a proposito, lei è proprio il protagonista ideale della nostra puntata perché parliamo anche di cucina. Cosa ci cucina oggi? Ma a me piace molto lo spezzatino di manzo. Lo spezzatino di manzo da condire, da accompagnare con la polenta. Ma è un piatto italiano, visto che appunto lei è da molti anni in Italia, è sposato in Italia, ha delle figlie, lavora qui da tanti anni, o un piatto che lei ha cercato così di fondere con anche le sue origini africane? Sì, è un misto, diciamo, è un piatto ibrido, con oltre al spezzatino solito che in Italia si fa con i piselli. Io sostituisco i piselli con gli spinaci. Aggiungo anche i gamberetti, qui diventa un po' particolare, con due cucchiaie di burra di arachidi che dà un sapore e aggiungo soprattutto i peperoncini che non mancano mai e assomiglia un po' a un sugo che facciamo da noi in Togo, che si chiama Gbomadesi, cioè è un sugo a base di erba, quell'erba qui non c'è, l'erba che gli assomiglia di più è lo spinaci. Ho capito, ed è una salsa particolare, no? Sì. E poi c'era un'altra ricetta che mi incuriosiva, che mi ha segnalato, il coniglio alla ligure? Eh sì, il coniglio alla ligure, il coniglio è una carne anche leggera, abbastanza gustosa, lo faccio alla ligure oltre che con i soliti pinoli e le olive taggiasche, aggiungo la salsa di pomodoro, perché vengo da una cultura dove in genere si usa il piatto unico, quindi coniglio solo così mi sembrava poco, io aggiungo i pomodori in modo da poter condire con il riso pilaf. Invece della sua infanzia in Togo, che cosa ricorda dal punto di vista proprio dei sapori, degli odori? Ah, i sapori, infatti io penso che la più forte nostalgia che si ha è la nostalgia in genere dei sapori, dei profumi e degli odori. Io ho nostalgia soprattutto di un pollo che faceva mia mamma alla griglia con tanto di peperoncini e pomodori, che era molto buono. E poi noi usiamo mangiare la polenta, non la polenta gialla, come si usa qui in Brianza, ma quella bianca, però non salato, perché il sugo è già salato e condito a modo suo, per cui serve ben poco salarla. È una polenta, tra l'altro, che mi sembra, da quello che dice, simile alla polenta che si usa anche in Veneto, una polenta bianca piuttosto sciapa, quindi più delicata di gusto. Lei forse non tutti conoscono la sua opera, è uno scrittore della letteratura migrante in Italia, ha pubblicato diversi libri e anche racconti, in particolare Imbarazzismi, una serie di piccoli racconti di quotidiana discriminazione in Italia, da cui però sono nate anche delle riflessioni abbastanza ironiche. Lei riesce a coniugare, insomma, queste riflessioni importanti anche con l'ironia? Eh sì, perché l'ironia è un'arma, secondo me, importante, perché permette, io credo che affrontare determinati problemi a volte con la risata, facendo ridere, diciamo, l'altro apre la bocca e il messaggio passa più facilmente, perché la risata fa diciamo luce nelle tenebre. L'ironia permette di poter dire alle persone le cose senza che si offendano, perché dire a qualcuno, per esempio, che è ignorante, uno ci rimane male, invece se dice ma non conosci, che poi è la stessa cosa, lo vede in modo diverso. Per esempio noi, mia moglie mozzarella, cioè nel senso che essendo italiana noi la chiamiamo la colf in colore. Alla colf in colore, senza colore. Sì. No, e io definisco, per esempio, noi, questi nuovi italiani africani, i diversamente visibili. Diversamente visibili. Lei è diversamente visibile anche in ospedale, perché lavora da molti anni nell'ospedale di Erba, se non sbaglio? Sì, lavoro all'ospedale di Erba, dove però diciamo che il mio camice mi sbianca un tantino e quindi mi fa vedere un po' meglio, poi ti protegge, mi fa un po' una corteccia e le persone comunque non hanno paura dell'uomo nero, molte volte è la paura di non poter comunicare con l'uomo nero. Forse c'è anche rispetto per il camice, quando invece lo toglie è diversa la situazione? Finché sono in ospedale sono il tutur. E quando esco fuori che divento Vucumpra e diventa paranoico vivere costantemente in questi due ruoli. Aiuta l'ironia a superarlo, ecco. Anche dopo 40 anni succedono questi equivoci spiacevoli? Sì, l'altro giorno ero a Verona sul binario, vedo due carabinieri che attraversano le binari, corrono, mi arrivano, mi fanno documenti. Mi sono guardato attorno, non ammazzavo nessuno, non stavo urlando. Dico, ma perché a me? Però loro stanno facendo il loro lavoro, tiro fuori i documenti, controllano, mi fa, ah, lei è italiano? E dico, sì. Ah, lei è un medico? Allora, quando vede il medico, comincia giustamente a darmi lei. Allora io gli dico, ma posso fare io una domanda? Lo sapete che è vietato attraversare i binari? E loro mi dicono, ma noi nell'esercizio della nostra professione la possiamo fare. E dice, sì, ma sapete quanti muoiono nell'esercizio della loro professione? Insomma, anche qui ha infilato un po' di ironia per cercare di far capire, ecco, il contrasto tra quello che chiedevano e magari quello che stava accadendo. Lei, se non sbaglio, ha letto su internet che avrebbe detto questa frase: chi non è mai uscito da casa pensa che solo sua madre sa fare bene il sugo. Conferma? Assicuro, sicuro. ci sono tante mamme che sanno fare il sugo. Io sono dell'idea che la cucina è uno dei mezzi proprio per conoscersi meglio, è un modo di avvicinare all'altro, ma però molte volte si è così etnocentrici che si pensa che sotto altri cieli non sanno cucinare. E invece in Africa si cucina molto, ovviamente è un continente, quindi noi quando parliamo di cucina africana in realtà ci riferiamo a una cucina molto diversificata. Allora nella nostra scheda abbiamo cercato di riassumere di cosa parliamo quando parliamo della cucina del Togo. La cucina del Togo viene spesso considerata come una delle migliori dell'Africa occidentale. Prodotto tipico è una buona salsa usata per condire molti alimenti che si chiama semplicemente sauce, salsa. Un altro piatto tipico è il riso con la salsa d'arachidi. Ogni regione ha le sue specialità. Nella regione costiera è diffuso il lamounou de si, o sauce de poisson, salsa di pesce fresco. Altre salse sono quelle di aglan, granchio, tomate, pomodoro, aubergine, melanzane ed épinard, spinaci. Il vino di palma nel sud e lo ciacpallo, miglio fermentato nel nord, sono le bevande alcoliche che vengono consumate maggiormente. Qual è l'esigenza che l'ha portata ad andare oltre la sua professione di medico? Ma la scrittura è stata un'esigenza di comunicazione. Gli anni in cui ero arrivato in Italia si conosceva poco, forse ancora oggi si conosce poco della cultura africana, dell'Africa. Io volevo comunicare con gli italiani, volevo innanzitutto far provare agli italiani, fare capire che io provo sentimenti, emozioni come loro, che sono una persona come loro, che non ero soltanto l'estraneo. E la scrittura, le parole mi sembravano strumenti adeguati, e soprattutto usando la lingua di Dante, di Moravia, di Calvino, la lingua di Eri De Luca, la loro lingua per comunicare con loro. Ed è partito così a scrivere, ho iniziato a scrivere, un po' spinto anche da mia figlia che aveva visto un concorso e mi ha detto: papà, c'è questo concorso che dice memoria in valigia, perché non racconti quelle cose che ci racconti? Lei ha iniziato a scrivere, è stato più volte pubblicato, ha vinto anche dei premi. L'Italia del 74, quando lei è arrivato, era molto diversa da oggi, no? Nel suo approccio con l'Italia, che cosa è cambiato? Allora c'erano più pregiudizi, ce n'erano di meno? Ma diciamo che forse c'erano di meno nei nostri confronti, noi gli africani, c'erano di più verso i greci. Io ricordo allora all'Università Bologna i ragazzi greci erano quelli a cui non si affittavano le case, perché parlavano una lingua strana, erano tutti barbuti, erano ragazzi che scappavano dalla dittatura dei colonnelli. Noi africani, che eravamo essenzialmente, diciamo, un'immigrazione intellettiva, venivamo più considerati, noi eravamo i bravi, ecco, per dire così. Sì, allora c'era un'immigrazione, beh, intanto c'erano poche persone dall'Africa che venivano in Italia ed erano degli intellettuali o delle persone che potevano studiare. Certo, e poi con il tempo, vabbè, con l'arrivo di nuovi immigrati, sempre il numero più ingente, e poi soprattutto di livello magari culturale minore, la gente ha cominciato a avere forme di chiusure, fino ad arrivare poi a quello che io chiamo le forme di razzismo istituzionale che ultimamente si sono creati, dove l'immigrato diventa clandestino, delinquente, criminale. Quindi dall'irregolarità si arriva a questa sindrome della paura dell'altro, dell'altro che viene a rubare il posto di lavoro, dell'altro che delinque, dell'altro che alle case noi non ce l'abbiamo, dell'altro che viene a distruggere la nostra identità, dimenticando che in fondo l'identità è legato sempre al contatto con un altro, che sono gli altri che ci permettono di identificarci. Io posso vedere la gente e dire: voi siete bianchi perché io sono nero, o se preferite io sono nero perché voi siete bianchi. Se io sopprimo la loro essere bianchi, il mio essere nero non ha più ragione di essere. Quindi, forse c'è anche un'immagine dell'Africa un po' stereotipata in Italia, anche i media sono responsabili di diffondere questa immagine, no? Mi vengono in mente un paio invece di esperienze interessanti che vanno proprio a decostruire pregiudizio che si ha verso un'Africa sempre povera, che ovviamente esiste, ma c'è anche un'Africa che si sta ricostruendo, che si sta espandendo. Mi viene in mente, non so se ha sentito parlare di una ONG norvegese che ha lanciato una campagna di sensibilizzazione provocante, no? Un video che ha raggiunto 1 milione di persone su YouTube che si chiama Africa for Norway, quindi gli africani per la Norvegia. Sono degli africani che cantano una canzone sullo stile di We Are the World e vogliono donare radiatori ai norvegesi poveri che muoiono di freddo. Ovviamente è provocatoria, ma vuole bandire gli stereotipi sull'Africa. Eh sì, se no vi sono fuori, perché a parte che le trasmissioni interessanti sull'Africa passano in genere alle 2 o alle 3 di notte, altrimenti l'idea dell'Africa del virus Ebola, l'Africa dei bambini con la pancia gonfia di fame, rosario rachitico con la mano tesa, l'Africa dei dittatori cannibali, cioè l'immagine dell'Africa, l'Africa dell'AIDS è sempre un'immagine pietosa. C'è un'Africa che ha un senso, di un valore che secondo me manca oggi in Occidente, è il valore della solidarietà. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Siamo con Così Komlai Bri, scrittore e medico italiano originario del Togo, che sta cucinando con noi lo spezzatino di manzo con una salsa simile a una salsa che si usa in Togo con gli spinaci e il coniglio alla ligure. Senta, ma io tra le domande che le ho fatto nei giorni scorsi quando ci siamo sentiti, le ho chiesto di selezionare una musica che le poteva piacere e mi ha selezionato tutta una serie di canzoni tutte italiane, non internazionali. Come mai? Perché io sono un incorreggibile romantico e molte canzoni italiane mi piacciono, come mi piace la lingua italiana, perché è una lingua molto armoniosa, quindi che si adisce bene secondo me alla canzone. Quindi io sono uno innamorato della lingua italiana e mi dispiace che questa lingua oggi sia così pieno di workshop, coffee break e così via, come se non esistesse. Cioè lei, che è un italiano, diciamo un nuovo italiano, anche se è da 40 anni in Italia, scrive in lingua italiana, è un tradizionalista alla fine della lingua italiana, è così? No, sì, sono tradizionalista perché io credo che la lingua italiana è ricca di espressioni che altre lingue magari non hanno. Per esempio, dopo finito di mangiare, uno usa quel pezzettino di legno che i francesi chiamano cure-dent, che gli inglesi chiamano tooth e l'italiano chiama stuzzicadenti. È stupendo! Ma nella lingua italiana è pieno di... Io so che chi è in possesso della lingua così non ha diciamo, la distanza sufficiente per ammirarla, ma per uno che arriva, che lo impara, soprattutto uno che gioca sulle parole come uno scrittore che è un artigiano delle parole, questa lingua è piena di sorprese. Ecco, io sono innamorato, lo dico la verità, della lingua italiana. Qual è lo scrittore italiano che ha amato all'inizio, subito? Calvino. Calvino. Ancora oggi per me, anche perché a me piacciono molto i racconti piuttosto che i romanzi, e Calvino è un maestro, ecco. Però lei ha scritto anche un romanzo, no? Ha pubblicato un romanzo. Sì, ho pubblicato un romanzo, Neila, che è stato tradotto anche negli Stati Uniti, e è un romanzo d'amore verso l'Africa. Torna spesso in Togo? Certo, dove torno, dove ho le mie radici, perché è importante, sì che l'albero cresce, però le sue radici sono importanti. Sarebbe importante in Italia che i nuovi cittadini vengano poi chiamati con queste loro doppie identità, anche la loro pluridentità. Io sono un afro-italiano, sono un togolo-italiano, se possiamo dire così. Le due cose convivono dentro di me, e la nostalgia è sempre quel fuoco che cova costantemente sotto la cenere, e quello sì, dell'infanzia, del mangiare. Io sono un goloso, io sono di quelli che pensano che dove si mangia bene la gente è più accogliente. E invece, quando è arrivato in Italia, ha mai provato un pregiudizio lei verso dei gusti magari italiani che all'inizio non comprendeva, non conosceva? Sì, io, cioè, ci sono per esempio, non sapevo, tanto per cominciare, che la pasta andava mangiato al dente, no? Che è un'espressione che ho imparato, perché noi mangiavamo la pasta alla francese come contorno, quindi puoi immaginare in che condizione. E poi io non mi piaceva per esempio né l'odore né il gusto dei cavolfiori. L'ha superato questo pregiudizio? L'ho superato in parte, devo dire la verità. Ancora resiste? Ancora. Beh, è un po' forte il cavolfiore. Le prime volte che l'ho mangiato per educazione e la gente, la persona, la famiglia lì mi hanno invitato la seconda volta, e come mi hanno visto mangiarlo con velocemente hanno pensato che mi piaceva. Quindi hanno continuato a invitarla cuocendo del cavolfiore. Senta, lei avrà presente sicuramente il film da cui prendiamo spunto per la nostra trasmissione, Indovina chi viene a cena. Sì. Questa coppia di americani progressisti, a un certo punto si vede arrivare in casa la figlia ventenne bianca, accompagnata da un ragazzo, un aitante ragazzo di colore. Le è mai capitato, lei che è una persona, un italiano di colore, di vivere una situazione simile? Sì, qui in Italia ai primi tempi, io all'università avevo conosciuto una dolce fanciulla di cui ero innamorato, quindi avevamo dei progetti, ma i suoi genitori assolutamente non mi volevano, addirittura ho avuto minacce di morte. Poi vabbè, la storia è finita, siamo rimasti grandi amici, però questa resistenza c'è, perché la gente a volte non pensa di essere, non dico parola razzista, di avere pregiudizi finché non è confrontato direttamente. Finché non si siedono a tavola i pregiudizi. Io ho avuto anche, quando andavo da amici, un professore di matematica che conoscevo in Francia, ero molto amici con i suoi figli, e lui mi diceva, guardando una trasmissione proprio sul razzismo, mi diceva: guarda, così noi qui non siamo razzisti, vedi, mangi a tavola con noi. Dico: va bene o male, non so se devo mangiare sotto il tavolo, però io dico: sì prof, guardi che se per esempio chiedesse di sposare sua figlia, mi ha detto: no, ma lì è una cosa diversa. Però da quel giorno non mi ha più invitato a casa sua. Aveva paura che sposasse la figlia. Poi lei si è sposato effettivamente con un'italiana, in quel caso è andata diversamente. Sì, no, per fortuna. Anche se io, bruciato dalle esperienze precedenti, ero un po' garbingo, cioè nel senso che però veramente ho trovato delle persone, tutta la famiglia, veramente, fratelli, sorelle, genitori, persone eccezionali. E poi non può parlare in diretta male dei suoceri. Le faccio sentire un altro passaggio del nostro film. Tu hai 30 anni più di quelli che ho io, papà. Tu e la tua sciocca generazione credete che così come è stato per voi dovrà essere sempre. E finché tutta la vostra generazione non sarà sottoterra, non riusciremo a levarci dal groppone il vostro peso morto. Insomma, ti devi togliere dal mio groppone. Papà, tu sei mio padre. Io sono tuo figlio. Ti voglio bene. Te ne ho sempre voluto e te ne vorrò sempre. Ma tu ti consideri ancora un uomo di colore, mentre io mi considero un uomo. Allora, insomma, il protagonista di colore, il ragazzo che vuole sposare questa giovane, dice al padre: tu ti consideri un uomo di colore, io semplicemente un uomo. È diverso, immagino, l'approccio che hanno adesso le persone di colore. Lei parlava appunto di queste esperienze con questa ragazza bianca negli anni 70. Adesso, secondo lei, è diverso? Per i suoi figli sarà diverso? I tempi sono cambiati rispetto agli anni 70 sicuramente, però rimane ancora dei residui diciamo di diffidenza, cioè per dire, quando mia moglie andava in giro con i ragazzi, abbiamo due figli, la gente per strada le chiede: ma sono fratelli e sorelle? E mia moglie dice: sì, sono fratelli e sorelle. Dice: oh, che brava sciura che li ha adottati tutti e due, no? Cioè non riusciamo. Se ci vedono noi quattro assieme, allora fanno le miscele giuste, perché caffè e latte e loro caffè e latte ci stiamo. Però se lei da sola va con loro, pensano sistematicamente che siano adottati. Quindi c'è ancora una certa resistenza, no? Però diciamo che io credo che il mondo va in quel senso lì. Cioè io non credo che il mondo non sarà, io almeno spero, né un frullato delle nostre culture, né un frullato delle nostre identità, semmai creeremo una Macedonia delle nostre identità, una Macedonia delle nostre culture, dove mangiandole sentiamo il gusto di ogni frutta, senza che si perda nell'insipido del frullato. Diamo le ricette di oggi sull'immagine di questa Macedonia. Gboma de si, salsa di spinaci con carne. Ingredienti: una cipolla, due spicchi d'aglio, due cucchiai di zenzero grattugiato, 500 g di spinaci, un chilo di carne macinata di manzo, un dado di carne, una scatola di pelati, olio, sale, peperoncino. Lavate bene gli spinaci, lessateli in abbondante acqua salata, scolateli, strizzateli e tagliateli finemente. In una pentola fate rosolare in poco olio una cipolla e uno spicchio d'aglio tritati finemente. Aggiungete la carne, sale e zenzero. Lasciate cuocere per 15 minuti. In un altro tegame mettete l'altra cipolla, lo spicchio d'aglio rimasto e fate rosolare in poco olio. Aggiungete i pelati e lasciate cuocere fino a che la salsa non si restringe. Aggiungete il dado, il sale e il peperoncino. Unite la carne ai pelati e infine gli spinaci. Mescolate e lasciate cuocere 15 minuti. Coniglio alla ligure. Ingredienti: un coniglio a pezzi, sale, olio, pepe, farina, vino bianco, mezza cipolla bianca, noce moscata, basilico, rosmarino, maggiorana, salvia, pinoli, olive taggiasche. Lasciate il coniglio in ammollo in acqua e aceto bianco in una grande terrina per un'ora e poi sciacquatelo accuratamente. In una padella larga e bassa antiaderente soffriggete la cipolla tagliata fine con sale, olio, pepe e un trito di erbe varie, salvia, rosmarino, basilico e maggiorana. Quando si sarà ben rosolato, aggiungete una generosa manciata di olive nere taggiasche e di pinoli e sfumate con il vino bianco. Unite anche il coniglio, spolverate con una bella grattata di noce moscata e continuate a rosolare. Servite ben cotto e aggiustato di sale e pepe. La puntata termina qui, io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi, lo scrittore medico Cossì. Grazie e buon appetito! Grazie e buon appetito a tutti. Grazie in regia Roberto Scaltriti. Mi trovate anche su Twitter @Valfur. Trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito e ricordate che i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.